lasciano fuori almeno 10 milioni di persone, cioè quelli che hanno una pensione oltre i 1.400 euro lordi. Però la fascia che va da 1.400 lorde a 2.400 lorde sono lavoratori e lavoratrici che hanno versato oltre i 40 anni di contributi in continuazione ed hanno già perso, prima con le decisioni di Berlusconi, poi con il governo Monti, hanno già perso in un anno mediamente 400 euro all'anno che si trascineranno per tutta la vita, e questa è una questione che non può continuare ad essere così. Quindi cosa chiedete? Che venga rimosso il blocco almeno fino a 8 volte il minimo, che vuol dire almeno fino a 3.000 euro lorde. Poi oltre 3.000 euro lorde si tratta di discutere se per caso conviene per un certo periodo mettere una patrimoniale, ma che non può riguardare solo le pensioni, deve riguardare tutti i redditi, se vogliamo far cassa e fare equità.